domanda ancora dove sono stato. E dice le bugie ma sono stancato. E mi guardo perché mi trovo quella macchia di setta dove sta. Però basta stavolta te dico tutta verità. Sono stato là ma ci spogliata a nudo, mentre avanzava si pigliava cuore. La bella sotto sotto a che stimata accarezzava e non pensava a te. Sono stato là e non mi sono venduto, non tengo colpi, non ho sbagliato. Sbagliasse solo si dicesse voglio sta con te. Sono stato là e mo ci torno ancora, stavolta non ci resto solo amore. Sono stato là perché che la desava ma ci dico. No, non so chi la cacere che perdona, ma se vado non soffrisse ancora. Sulle vane mi voglio portare, tutto questo rimanga a te can. Niente cavo a parlare di st'amore, ma voglio portare. Sono stato là ma ci spogliata a nord, mentre avanzava si pigliava cor. A bella soia sotto a questi mani mi accarezzava e non pensava a te. Sono stato là e non mi sono venduto, non tengo colpi, non ho sbagliato. Sbagliasse solo si dicesse voglio sta con te. Sono stato là e mo ci torno ancora, stavolta non ci resta solo un'ora. Sono stato là perché che la desava ma ci di. Non mi merda, torna a vivere. Però non so cattiva come dice tu. Sono stato là ma ci vegliato amore. Sono stato là e stavolta ci rimango per non ritornare.